And now a short test. You'll hear four questions. Ecco un esempio. I primi occhiali da sole sono troppo grandi o troppo piccoli per Sara. Nella pausa dica la risposta. In the pause say the answer. I primi occhiali sono troppo grandi per Sara. Capito? Understood? Bene, ecco la prima domanda. Good, here's the first question. I primi occhiali da sole sono troppo grandi o troppo piccoli per Sara? I primi occhiali da sole sono troppo grandi per Sara. Ecco la seconda domanda. The second question. Giovanni fa uno sconto di 30 o di 40 euro? Giovanni fa uno sconto di 30 euro. Ecco la terza domanda. The third question. Sara paga con carta di credito o in contanti? Sara paga in contanti. Here's the fourth and last question. Ecco la quarta ed ultima domanda. Il passaporto di Sara è nella sua borsa o alla reception dell'albergo? Il passaporto di Sara è alla reception dell'albergo.